dirigono l'orchestra le zuppe al pomodoro Mutti. Zuppe pronte fresche che a vederle vien la voglia, ricche appetitose mica solo una brodaglia, anche i buon gustai saranno più che soddisfatti, mai più senza le nuove zuppe Mutti. Mutti ti dedica tutta l'armonia delle sue nuove zuppe, fresche, corpose e genuine, da oggi conquistano anche il Festival di Sanremo. Zuppe Mutti, il gusto che si fa sentire. Runtime Radio presenta Ich bin ein Violino. De Lenda Cartago. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Un programma di storia e cultura a cura di Roberto Tomaiuolo. Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Prodotto da Simone Pizzi. Novembre 1975. Metà dell'intera flotta sovietica del Baltico fu improvvisamente messa in massima allerta. I loro ordini erano chiari e sconvolgenti: scovare e fermare il cacciatorpediniere sovietico Storzevoi, nave modernissima e vanto della Marina sovietica, con qualsiasi mezzo fosse stato necessario. Ma facciamo un passo indietro. In Unione Sovietica, il giorno prima, si era celebrata la cerimonia per il 58esimo anniversario della Rivoluzione di Ottobre, che ricordo, nel nostro calendario cade in novembre. Per unirsi ai festeggiamenti della città di Riga, il cacciatorpediniere Storzevoi si era trasferito dal suo porto di origine ad un molo della città. La nave era stata aperta per le visite dei cittadini per tutto il giorno, e circa la metà dell'equipaggio dello Storzevoi, composto da 250 uomini, era stato autorizzato a prendere parte ai festeggiamenti per l'anniversario. Lo Zampolit, l'ufficiale politico dello Storzevoi, un capitano di terzo grado, tenente comandante, di nome Valery Mikhailovich Sablin, aveva però scelto di restare a bordo della nave con un certo numero di suoi colleghi ufficiali. L'ufficiale politico, nell'Unione Sovietica, non aveva lo stesso rango del comandante della nave, ma gli era subordinato. Tuttavia aveva una catena di comando completamente separata all'interno della direzione politica militare. Verso le 2 dell'8 novembre, la Storzevoi lascerà gli ormeggi a Riga per cominciare ad attraversare il Golfo. Era in corso un ammutinamento, con il furto della nave ed un tentativo di fuga. Il capitano e tutti coloro che rifiutarono di partecipare all'ammutinamento furono rinchiusi. Circa le motivazioni dell'ammutinamento ci sono due versioni diverse. Una sostiene che lo stesso avvenne per protestare contro la leadership del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, all'epoca guidato da Leonid Ilyich Brezhnev. Il suo scopo era quello di prendere la nave e dirigerla fuori dal Golfo di Riga, verso Leningrado, attraverso il fiume Neva, ormeggiare accanto alla nave museo Aurora, il vecchio incrociatore simbolo della rivoluzione russa, e trasmettere da lì un appello nazionale al popolo. In quel discorso si intendeva rimarcare che il socialismo e la madrepatria erano in pericolo, che le autorità al potere erano corrotte, menzognere e che stavano portando il paese nell'abisso, che a causa loro il comunismo era stato accantonato e che c'era bisogno di rianimare i principi leninisti di giustizia. Un'altra versione, a parere di chi vi parla, meno credibile, sostiene invece che gli ammutinati volevano chiedere asilo politico in Svezia. Probabilmente non si saprà mai quanti membri dell'equipaggio furono fedeli a Sablin e agli altri cospiratori e quanti invece si rifiutarono di unirsi all'ammutinamento. Si ipotizza che Sablin, con un altro ufficiale di nome Markov e un fedele seguito di una dozzina di sottufficiali, furono in grado di ordinare al rimanente equipaggio, ridotto di giovani marinai di 18 e 19 anni, arruolati nelle rispettive stazioni, con una falsa storia di un'emergenza nazionale. Non vi è certezza sul perché l'allarme sia scattato, cioè su cosa abbia convinto le autorità baltiche che era in corso un ammutinamento. Vi è un resoconto che un marinaio lealista, tuffatosi fuori bordo prima che la nave raggiungesse la foce del fiume, si sia prima aggrappato a una boa di segnalazione del canale, per poi riuscire a nuotare verso la riva occidentale del fiume e informare le autorità sovietiche dell'ammutinamento in corso, tramite un normale telefono pubblico. In realtà egli non fu subito creduto, e questo fatto diede circa 2 ore di vantaggio agli ammutinati. Da principio, il comando del Baltico continuò ad essere incredulo, fino alla ricezione di un messaggio radio direttamente dalla nave in fuga, probabilmente generato da un altro lealista, di ammutinamento a bordo. Nel frattempo, sapendo di non avere molto tempo, Sablin aveva scelto di lasciare Riga immediatamente sotto la copertura della notte. Il radar fu spento in modo che non venisse rilevato il loro movimento. La nave ammutinata era in servizio da meno di 18 mesi ed era una delle più avanzate dell'Unione Sovietica. La nave era stata creata per attaccare i sottomarini nemici da 50 miglia di distanza, utilizzando razzi a corto raggio e missili a lungo raggio. Perdere la nave avrebbe potuto svelare preziosi segreti militari e sprecare qualsiasi vantaggio che la nuova e costosa imbarcazione aveva fornito fino ad allora. Il premier Brezhnev fu svegliato alle 4 del mattino ed autorizzò l'uso di tutta la forza necessaria per impedire alla nave di fuggire, compreso, se necessario, l'affondamento. Dal porto di Riga partiranno 11 barche veloci all'inseguimento. Decolleranno subito 38 aerei, ma entro la fine dell'inseguimento un totale di 60 aerei da guerra saranno inviati insieme a metà della flotta del Baltico all'inseguimento. La nave però incontrò una fitta nebbia e nel tentativo di evitare un potenziale incidente Sablin decise di accendere il radar. A questo punto, grazie al segnale del radar della nave in fuga, gli inseguitori identificarono la posizione della nave. I primi colpi furono sparati verso la prua e poi le bombe furono sganciate in un cerchio, cercando ancora di evitare di danneggiare eccessivamente il cacciatorpediniere. Lo Strozevoi non risponderà al fuoco, ma non è chiaro se ciò avvenne per la mancanza degli uomini che gestivano le armi antiaeree o perché l'equipaggio decise di non sparare sui propri commilitoni. In ogni caso, sia i fuggitivi che gli inseguitori erano nel caos. Quando lo Strozevoi iniziò delle manovre evasive per evitare di essere colpito, le forze inseguitrici colpiranno per errore un'altra nave gemella, anch'essa all'inseguimento, e alla fine quest'ultima nave subirà molti più danni dello Strozevoi. Gli attacchi furono fermati quando tutti gli inseguitori ricevettero un messaggio radio dal capitano, che alle 10.32 diceva di aver ripreso il controllo, e la nave fu quindi abortata. Il destino dei cospiratori e del resto dell'equipaggio non è certo. In caso di ammutinamento, in Unione Sovietica era solitamente comminata la pena di morte. Da quanto si sa, il processo a 15 degli ammutinati, tra cui Sablin, ebbe luogo nel maggio del 1976 davanti alla divisione militare della Corte Suprema dell'Unione Sovietica. Il capitano di terzo grado, Sablin, fu condannato a morte e la sentenza fu eseguita da un plotone di esecuzione subito dopo il processo durato 3 giorni. Alla vigilia dell'esecuzione, al padre di Sablin fu concesso un incontro di 20 minuti con suo figlio, alla presenza però di un folto gruppo di funzionari del KGB. Anche alla famiglia di Sablin non sfuggirà l'ira del regime sovietico. Uno dei suoi fratelli, che lavorava nello Stato Maggiore, fu trasferito nella Siberia orientale. Un altro, che era insegnante in un istituto di Mosca, fu trasferito più ad est, ad Ivanovo. Il secondo ufficiale fu invece condannato a 15 anni in un campo di lavoro. Il destino dei cospiratori arruolati è sconosciuto, ma alcune fonti parlano di un numero di giustiziati fino ad 82, anche se altre ritengono questo numero esagerato. In ogni caso, il resto dell'equipaggio, sopravvissuto alla condanna a morte, fu congedato con disonore. Gregory Young fu il primo occidentale ad indagare sull'ammutinamento, come parte della sua tesi di laurea del 1982, Mutiny on Storozevoi, a Case Study of Dissent in the Soviet Navy, e più tardi nel libro The Last Century di Young e Nate Braden, su cui si basa questo racconto. La tesi, depositata negli archivi della United States Naval Academy, viene letta da Tom Clancy, il quale vi si ispira per scrivere il libro La Grande Fuga dell'Ottobre Rosso, e dal quale deriverà il noto film Caccia Ottobre Rosso, diretto nel 1990 da John McTiernan. Rispetto alla storia reale, il capitano Marco Ramius si rivolta contro il governo sovietico non per riportarlo sulla linea leninista, ma per vendicare l'uccisione della moglie. Il mezzo navale nella finzione non è una fregata antisottomarino, ma il sottomarino Ottobre Rosso, il quale non viene dirottato verso l'Unione Sovietica, ma verso le coste degli Stati Uniti d'America, in quanto Ramius intende consegnarlo agli statunitensi. Altre parti che non hanno attinenza con la realtà sono il personaggio del cuoco, un agente del KGB e fedele al governo sovietico, intenzionato a far esplodere il sottomarino con tutto l'equipaggio pur di non farlo cadere in mani nemiche. Concludiamo sentendo le ultime parole di Valery Mikhailovich Sablin, intercettati in Svezia, rivolte all'equipaggio ma anche ai suoi inseguitori. Parlo a coloro che portano il nostro passato rivoluzionario nel cuore, coloro che ragionano criticamente ma non cinicamente sul presente e sul futuro del nostro popolo. Nell'evento di un attacco militare contro il nostro paese noi lo difenderemo lealmente, ma ora abbiamo un altro scopo, quello di far sentire la voce della verità. Oh!